così finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Difficile, difficile, difficile. Sedici giugno del 2021. Le frequenze, quelle degli 87.9 della banda romana laziale, cioè di Radio Onda Rossa. Ancora incredibilmente da remoto. C'è chi ci esorta a, così, a vincere questa nostra agorafobia che ci porta lontani dalla, ci tiene lontani dalla, dalla giungla d'asfalto, come dicevamo tanti tanti anni fa. Però promettiamo invece, ah, poi beh, peraltro stasera niente, non abbiamo l'incontro ormai consueto intervento del nostro rumoreggiatore quasi fisso ormai, Veleste, il fantasma, viceversa, insomma, è affetto da una sindrome ancora peggiore, proprio dalla agorafobia, e si tiene anche lui lontano, e per certi versi fa bene. E quindi questa sera è una puntata classica, proprio di quelle senza trip, senza... Manderemo le tracce e in parte ci prepareremo forse per quella che sarà la puntata della prossima settimana, quando faremo qualche telefonatina, cercheremo così di tenerci e di riaggiornarci, di riallinearci dopo tanti anni, ormai beh, tanti mesi di clausura e di accesso a Radio Onda Rossa da remoto. Ritorneremo mercoledì prossimo negli studi e chissà che uscirà fuori. Forse scintille, forse no. Nel frattempo vi andiamo a ricordare quella che sarà per i prossimi 18 e 19 giugno la due giorni di Compost, la festa di Tabula Rasa, una due giorni di incontri, un compost fatto di romanzi, fumetti, saggi, musica, birre al centro sociale La Torre. Insieme alla redazione di Tabula Rasa discuteremo di libri e cultura, Mario Desiati, Roberto Grossi, Francesca Manieri, Simone Nebbia, Veronica Raimo, Paola Soriga, Eleonora Susanna e Silvia. Eleonora e Silvia Susanna. Il programma prevede il 18 giugno 2021, 18:30 inizia la festa, selezione musicale e saluti a cura di Tabula Rasa. Malcolm Gaston, Feltrinelli, incontro con l'autrice Paola Soriga, Russo Antico, Perrone, incontro con l'autore Simone Nebbia, peraltro anche redattore di Radio Onda Rossa, per chi è attento ascoltatore, attenta ascoltatrice. E allora 20:30, opera lirica elettronica Sci-Fi sul libretto illustrato Faiena, ne parliamo con Eleonora Susanna e Silvia Susanna. 19 giugno 2021, apertura musicale a cura di Tabula Rasa, Spatriati e Einaudi, incontro con l'autore Mario Desiati, Cassadritta, Coconino, incontro con l'autore Roberto Grossi, e poi Donna e Fantastico, Veronica Raimo e Francesca Manieri dialogano sul mostruoso femminile nell'immaginario letterario e cine televisivo. Alle 20:30 musica e birra per la festa finale.

Allora, prima abbiamo ascoltato Pat. Una c'è fame e morte sul lavoro, un'altra vittima da sacrificare, un'altra vedova di un... Pat e Collatino Goddam, che producevano tre anni fa all'incirca, se non andiamo errati. Lava le mani, pochi secondi, tutte le giornate. Questo lavoro cinema, non ce ne voglia il buon Simone, diciamo, ha fatto ottime cose anche dopo. Il suo stile è sempre in più raffinato, più grezzo allo stesso tempo, e che si evolve di disco in disco, di produzione in produzione. Però sicuramente cinema è il disco a nostro avviso più riuscito. Questa è l'Italia degli sfruttati. Un vero contenitore di perle, uno appresso all'altro, ben suonato, ben cantato, bei testi, insomma, da ascoltare. E poi grandissimi gli ultimi, che producono live questo Eroi. Da un EP corto, 5-6 tracce, che si chiama Questi Anni, e guarda caso c'ha proprio la cover di Questi Anni, che andremo ad ascoltare dopo. Adesso ci riscoltiamo il buon Maurizio degli ultimi, dai. La prossima canzone si chiama Eroi. Questo pezzo è stato scritto perché c'è una guerra in corso e non si deve cambiare continente per andare a cercarla. È la guerra delle morti sul lavoro. Ogni giorno 4 morti sul lavoro sono in Italia. Cadi dal ponteggio, vieni schiacciato da una macchina industriale e non ci stai più. Tutti i giorni uomini e donne si svegliano la mattina presto per portare a casa un pezzo di pane e talvolta non ritornano. Talvolta non ritornano. A tutti gli eroi senza medaglia. Ma forse questo non è Maurizio, è l'ultimo, eh? No, guarda, guarda. Io questa per te, eh. Una c'è fame e morte sul lavoro, un'altra vittima da sacrificare, un'altra vedova di un uomo comune che non ha scelto di partire a morire. Ed ogni volta che qualcuno si indigna, con una lacrima si lava le mani. Pochi secondi in un telegiornale, e tutto il tempo per dimenticare. Per dimenticare. Un'imbarcatura, solo una madre che abbandona i suoi figli e si trattiene con i loro aguzzini, con un padrone che la farà franca, comunque vale ancora una volta, in una guerra dove non c'è giustizia, ed un morto è solo un'altra notizia, ah ah. Un'altra notizia. Questa è l'Italia degli sfruttati, 200 anni di morti ammazzati, trascinati in guerra senza ragioni, giustiziati per servire un padrone. Ogni mattina dentro questo macello, siamo in 50 dietro a questo cancello, svegliamo in coda senza dire parole, eppure oggi abbiamo visto il sole. Hey, hey, hey. Vabbè, insomma, il compagno problemi tecnici invece non manca mai di arrivare al momento giusto. Gli ultimi cover di questi anni. Qui il digitale ci dice che la data di uscita di questa ora è del 2019, ma credo che invece non sia così. Ci sembra che si tratti del 2015, ma così, vedete, il cartaceo, la plastica non mente mai. Vabbè, va da capo, perché vi dobbiamo presentare invece un'altra uscita recentissima. Ancora! Questa è assolutamente 2021, in attesa che venga pubblicato. Nel frattempo salutiamo chi dobbiamo salutare, dicevamo, vi abbiamo tenuto un po' in suspense. Uscita 2021 esattamente, beh, sempre col dovuto margine di errore a memoria, il 9 giugno, giorno del compleanno di Eugenio, il cantante dei Bulbigate. Un saluto perciò a Valerione, che ci tiene sempre presente. Quindi un disco nuovo per i Bulbigate che uscirà a settembre prossimo. Nel frattempo è uscito questo singolo 40, ancora Van Cui da Torino, per la band di cui tutti e tutte ricorderete il memorabile concertone in quel della SNIA, proprio per Radio Onda Rossa. Io non mi cambierete perché ho dentro fare un'altra faccia. Ho più cicatrici di... con altre tre band, se non abbiamo errato. Un singolo, questo qua, questo 40, suonato insieme con un inserto finale di Roddy Moreno degli Oppressed. Questi anni stanno correndo via. E quindi, voglio dire, più old style di questo, più sharp di questo. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. mescolato col Campari per non pensarci mai. Scendi con le finge di calmarti, troppo amaro come questa vita. Corri forte senza mai fermarti, vai, vuol dire non è finita. Ma ti sei visto come stai? Di andar via, ma poi non sai scappare, e questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare mai, ai, ai, non la sai cambiare mai, mai, mai. Ci voleva perciò una puntatona come questa, dopo tanto rumore, tanta confusione, tanti suoni, che tanta musica che veniva da oltreoceano, da oltremare, o addirittura dagli antipodi del pianeta, come usiamo fare da queste parti, dopo tante sperimentazioni. Ci mancava una bella puntata, una bella selezione, una bella scaletta old style, punk o hardcore. E perciò la mentalità questa è anche nostra, placcaggio hardcore. Chissà se avremo la forza di tornare all'intensità di un tempo nell'andare e nell'organizzare, nel mettere su, nell'infilarsi in mezzo a serate, concerti, sudore. E tanta energia. Nel frattempo il fantasma ci suggerisce Erode, che effettivamente mancava da questa scaletta, forse fatta con cose un pochino più recenti, ma siamo andati a ripescare Auf Wiedersehen degli Erode, un grande classico, quindi anche lo zampino del fantasma c'è questa sera. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, 0649 1750, recapito telefonico, la campagna di radioabbonamento 30 per 1000, andate sul sito www.ondarossa.info, cliccate sul banner in alto che campeggia, trovate la modalità per dare i vostri 30 o più euro. Per mantenere questa radio, Erode. sta giornata. Risponde il ragazzo de bottega. È stata curta un cazzo che te frega. Che bello! Un saluto anche a Flavio dei Razza a Parte e a tutti i Razza a Parte. Questa è la loro classicissima E notte, che spesso e volentieri dopo giornate intensissime finite negli studi della radio a 25 o'clock ci sentivamo proprio di mandare con non tanto con tutto il cuore, ma proprio con tutto il corpo, con tutte le membra, tanto la sentivamo. Di sette porte in sette luoghi, reale, attuale, sulla pelle. E qui andiamo a introdurre ancora Razza a Parte. Un bacio sapirà. Questo è un omaggio a Lucio Fulci e quindi ovviamente fra poco ci saranno anche P38 Punk e Bon Marco, che credo abbia fatto la tesi di laurea su Lucio Fulci. Quindi da capo Razza a Parte, l'aldilà, omaggio a Lucio Fulci, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Cosa succederà? Chi chiamerà? Dall'aldilà? But then we realized that it was all in plan. Cause you can play crap on the radio. You can't play crap on the radio. Be careful what you say, and you can play shite all day. You can't play crap on the radio. E se questa era una scusa, non funziona con noi. You can say crap on the radio. La data non ce la ricordiamo. Di questa Modis Errors, ovviamente. Noi continuiamo ad amare molto i skinhead sbevazzoni dell'Irlanda. Da Belfast, ovviamente, dicevamo Steel Little Finger. Radio Onda Rossa 25 o'clock. Ai controlli insieme al compagno Problemi Tecnici. Dicevamo 0649 1750, non ci chiamate o chiamate il numero della radio. Ancora una puntata da remoto. Però ci potete scrivere Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio. E 25 o'clock 25 scritto a numero @ondarossa.info per disturbare i sottoscritti. E li avevamo annunciati. 2018, quando stava per partire la storia della rivoluzione d'ottobre, l'anniversario, uscì questo singolo e fu presentato in diretta in anteprima mondiale sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Bella Marco, l'ottobre sta arrivando, P38 Punk. Fra poco, appena finiscono gli sbevazzoni di Belfast. Di dire che non siamo capaci di dire schifo per radio, ma diciamo molto di più, dai. Sul vivo dell'incrociatore Aurora, la rivoluzione è una pressione. d'acciaio che tracciano solchi sulle incudini che battono gli operai e trasformano le industrie nelle cattedrali del lavoro. L'ottobre sta arrivando, l'ottobre sta arrivando, l'ottobre sta arrivando, l'ottobre sta arrivando, l'ottobre sta arrivando, l'ottobre sta arrivando. fight. Skin is black, he's gonna stay. So if you think you've got a sassy, be a skin, be like us. He's a skinhead in a morning boots and short clothes. Abbiamo la sensazione che una parte della voce sia saltata nell'inserto precedente e che quindi avete perso tutto quello che ho detto, ve lo riassumiamo velocemente, chiediamo scusa se invece fosse andato in onda. realmente parlavamo appunto degli Oppressed e di Roddy Moreno, che ha suonato appunto nell'ultima uscita dei Bull Brigade. E degli Oppressed abbiamo ascoltato la traccia Joaquin. Chi era Joaquin? Era un personaggio nato dalla fantasia di Richard Allen, scrittore delle subculture giovanili della Gran Bretagna degli anni 70. Romanzi che vertevano intorno alla figura delle avventure di John Hawkins, questo torbido personaggio della scena skinhead. E poi di quegli anni, appunto, quella che sentite sotto la nostra voce, tratta dall'ultimo lavoro, l'ultima uscita per i Discharge, che c'ha il primo disco che è di inediti, uscito nel 2020, e poi invece il secondo disco che raccoglie un po' le tracce della loro storia, fra cui questa Living in the City del 77 e Si sente, e dopo dall'altra parte sull'altro lettore, diciamo, in radio. Non è questo il caso. Uscita invece per queste parti qua da noi, Rotten Conidg, il re dei sorci, cresta alla voce, e questa è la loro polemica Marò. Forse ci chiamerete campanilisti, ma noi il punk hardcore dell'urbe ci sta dentro, eh. C'è tutta una storia dentro questo modo di suonare e di cantare. Una storia che spesso e volentieri si è incrociata con quella di Radio Onda Rossa. E perché no con quella di 25 O'Clock. Ma noi a pagnottella abbiamo messo Marò de Rotten Conidg in mezzo ai Discharge. E questo è un remix e è un remix di Guerriglia, Accessories by Molotov. Discharge, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Accessori by Molotov, Discharge Remix. Un'altra uscita invece, recentissima, più recente ancora di quella dei Bull Brigades, due giorni dopo. È una cosa che ci commuove anche un po', una bella immagine di Claudia con la sua chitarra elettrica e con tutti i suoi marchingegni per terra come la conoscevamo. A lei dedicata Neid, 11 giugno 2021. La fine non è la fine, titolo esplicito ed evocativo. E quindi dalla Tuscia Neid per il cambiamento a Radio Onda Rossa, 25 o'clock.

number 9, going south from Caroline. I heard that long whistle blow. I got in trouble, had to roam, left my gal and left my home. I heard that long whistle blow. Just a kid acting smart, I went and broke my darling's heart. I guess I was too young to know. It took me off the Georgia main, locked me to a ball and chain. I heard the long whistle blow. All alone, I bear the shame. I'm a number, not a name. I heard that lonesome whistle blow. All I do is sit and cry while that evening train goes by. I heard that lonesome whistle blow. I'll be locked here in my cell till my body's just a shell and my hair turn whiter than snow. I'll never see that gal of mine, 'cause I'm in Georgia doing time. I heard that lonesome whistle blow. Heard that lonesome whistle blow. I heard that lonesome whistle blow. E ci siamo Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, siamo arrivati alla fine. Per ora ultima puntata da remoto, sì. Da mercoledì prossimo si tornerà in radio. E di seguito, dopo gli Eresis, traccia una rotta, abbiamo ascoltato Rock and Ritz. Cambia il corso del fiume. E poi la voce profondissima di Billy Bragg in coppia con John Henry. Lonesome Whistle. Con questo finisce la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa per questa notte. Vi ricordiamo 18 e 19 giugno il Compost Fest, la festa di Tabula Rasa, una o due giorni organizzata appunto da Tabula Rasa di incontri e compost fatto di romanzi, fumetti, saggi, musica e birra al centro sociale autogestito La Torre. Insieme alla redazione di Tabula Rasa discuteranno di libri e cultura Mario Desiati, Roberto Grossi, Francesca Manieri, Simone Nebbia, Veronica Raimo, Paola Soriga, Eleonora e Susanna, Eleonora Susanna e Silvia Susanna. Dicevamo, la programmazione finisce qui, si riprende, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica suonata con con le sue repliche, con le sue selezioni musicali fino alle 8 di domattina, quando ci sarà la rassegna stampa. Lettura prima pagina dei giornali, rassegna stampa vera e propria. Dalle 10 redazioni della radio, poi una piccola pausa nell'ora, quando se magna. E poi alle 14 tutta scena cinema. Alle 16 Attica Blues, oltre alla Black Music. Alle 17 La Schiena del Sole. Alle 18 il Mezzeres del giovedì. Alle 20 Tabula Rasa, appunto, che sicuramente ci parlerà di compost. E alle 23 Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro che ci ascoltano a condizione di libertà, di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, con Salvo nel cuore. Bella a tutte e a tutte, noi vi lasciamo con Swing Easy, Shot in the Dark version. Bella a tutte e a tutte, ci sentiamo mercoledì prossimo in diretta dalla radio. I'll share our dreams under a communist moon.